Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Matteo Renzi, che ne pensi della proposta di abolizione del bollo aumentando, aperta parentesi, ragionevolmente le accise? Ho risposto che non è una cattiva idea, ne avevamo già discusso, io trovo che sia un'idea intelligente dal punto di vista della utilità concreta per i cittadini, perché in questo caso pagherebbe soltanto chi usa e chi consuma e quindi chi inquina e non necessariamente tutti. E a voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sembra effettivamente una buona idea questa? Renzi rispondeva, come ormai fisso questo appuntamento mercoledì, qualcuno dirà non se ne può più, Renzi che risponde, Matteo risponde, si chiama hashtag Matteo risponde, via Twitter, via Facebook, via audio, via video, contemporaneamente a tutti quelli che gli sottopongono delle domande. In questo caso c'era una proposta da parte di un cittadino, di una cittadina, su evitare, quindi eliminare il bollo sull'auto e rifarsi magari con le accise sui carburanti. Voi la trovate una buona idea? Sareste disponibili a pagare qualcosa di più sulla benzina, sul diesel, insomma sui carburanti, essere però esentati dal bollo sull'auto? Perché, dice Renzi, probabilmente questa era la proposta di questo cittadino o cittadina, in questo modo chi consuma carburanti e anche chi quindi contemporaneamente inquina paga, e gli altri che magari tengono la macchina ferma, la usano meno, non devono pagare il bollo. Che ne pensate? Questa è la domanda che vi sottopongo questa sera. Voi potete come sempre interagire attraverso due canali privilegiati che avete a disposizione: pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, alla quale potete anche aderire senza indugio, e poi il numero per gli SMS e i WhatsApp, che è il 349-238-6666, 349-238-6666. Stasera parleremo di moltissime cose, come sempre qui Effetto Notte. Non solo vi darò il quadro della giornata, come sempre all'inizio, ma parleremo di nuovo dell'inchiesta che si sta sviluppando sul sindaco di Lodi, che sapete ieri è stato arrestato, oggi è intervenuto anche un membro laico PD del CSM, poi si è tirato indietro, diceva che la custodia cautelare era una misura eccessiva in questo caso. Poi c'è un'inchiesta veramente paradossale in Sicilia di un giornalista che era considerato da tempo un paladino dell'antimafia, e invece con video riprese e intercettazioni è stato scoperto che praticamente è accusato di estorsione a due sindaci, li minacciava, in cambio voleva favori e soldi. C'è forse una novità positiva su Regeni? Ieri ne abbiamo parlato di Regeni, ma per una notizia invece negativa di questo ordine di censura nei confronti dei media. E poi ci sono anche molte altre cose, per esempio la decisione della Banca Centrale Europea, che ha deciso di eliminare la banconota da 500 euro. L'avete mai vista? Voi l'avete mai tenuta tra le mani? Comunque, tra poco vi faccio la sintesi della giornata. Se voi volete dire cosa ne pensate di questa proposta di aumentare le accise sui carburanti e però levare contemporaneamente il bollo sull'auto, scrivete alla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. L'inchiesta di Lodi, interviene anche un componente PD del Consiglio Superiore della Magistratura che chiede di verificare la legittimità dell'arresto del sindaco, ma poi ci ripensa. Scontro tra il Premier Renzi e i 5 Stelle. Il caso del giornalista siciliano Pino Magnaci, noto per le sue battaglie contro la mafia, accusato di estorsione a due sindaci. Politica italiana, Renzi annuncia sulle pensioni flessibilità dal 2017, sulle unioni civili si vota il 9 maggio. Siria, accordo raggiunto tra Stati Uniti e Russia per l'estensione della tregua alla città martoriata di Aleppo. Migranti, multe in Unione Europea a chi non accetta profughi, paesi dell'est contro Bruxelles, e Renzi critica l'Austria sul Brennero, dice solo propaganda. Intanto la Gran Bretagna cambia idea e accoglie i bimbi siriani. Il caso Regeni, arrivano alcuni tabulati telefonici dal Cairo e sabato ci sarà un nuovo vertice tra inquirenti egiziani e italiani. Addio alla banconota da 500 euro, la BCE ha deciso di eliminarla dal 2018. Scienza, scoperto un antidepressivo ad azione rapida senza effetti avversi. Calcio, per la Champions League è in corso la sfida tra Real Madrid e Manchester City. Partiamo quindi dall'inchiesta di Lodi, che ha portato all'arresto ieri per turbativa d'asta del sindaco PD Simone Uggetti di questa città vicino Milano. Renzi smentisce seccamente che vi sia un complotto contro il Partito Democratico e assicura la sua fiducia nei magistrati. Ma un membro laico del CSM, Giuseppe Fanfani, si era detto pronto a chiedere l'apertura di una pratica, dicendo il carcere è una misura eccessiva. Poi, dopo le reazioni dell'Associazione Nazionale Magistrati, l'annuncio ha detto non lo farò, ha fatto un passo indietro, e l'inchiesta comunque prosegue, tra poco torniamo a parlarne. Nel frattempo sale lo scontro tra Renzi e 5 Stelle. Vi chiediamo, siete disponibili a scrivere con noi una legge sui partiti dove la trasparenza sia un valore? Perché il vostro movimento è la quintessenza dell'opacità, è un monumento al nepotismo, nel senso tecnico del termine. Leggo lo statuto del Movimento 5 Stelle a 4 firme. Beppe Grillo, il commercialista di Grillo, Gianroberto Casaleggio e il nipote di Grillo, il nipotismo applicato al movimento politico. E poi Sibilia del Movimento 5 Stelle. La domanda era: chi finanzia lei e il suo gruppo? Sarebbe stata una risposta facile se non aveste avuto nulla da nascondere. Però il punto è che ogni scandalo a danno dei cittadini è un favore a certi gruppi di amici vostri. Polemiche 5 Stelle anche sulla giustizia, sia il testo base sulla prescrizione dopo un vertice di maggioranza, presente anche un verdiniano. Passa in Commissione Giustizia al Senato il testo unificato sulla riforma del processo penale e le nuove norme sulla prescrizione. A favore Partito Democratico, Partito Socialista e Nuovo Centrodestra, con il quale però un'intesa sul testo non è ancora stata raggiunta. Contrari 5 Stelle ed i verdiniani con Falanga, protagonista assoluto della giornata per il mistero sulla sua presenza o meno al vertice di maggioranza mattutino che si è svolto sul tema giustizia. Una questione non di poco conto, considerando che quello di oggi era il primo vertice dopo l'incontro PD-Verdini che, secondo i più, avrebbe sancito l'ingresso nella maggioranza di ala. Imbarazzo nemmeno tanto velato allora e smentita di Falanga. Non c'ero, ha detto, supportato dalle parole del capogruppo al Senato Dem Zanda, ma non da quelle di uno dei relatori del testo, Felice Casson, che anzi, davanti allo stesso Falanga, Serafico ha precisato: ma se eri seduto accanto a me. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo a un'altra inchiesta, quella che coinvolge Pino Maniaci, il giornalista famoso per il suo impegno contro la mafia, accusato dalle intercettazioni. Allontanato dalle province di Palermo e Trapani, ma soprattutto da Teleiato, la piccola TV locale di Partinico, che era diventata, secondo l'accusa, strumento di ricatto e di estorsione. E così Pino Maniaci, giornalista con fama di impegno antimafia, è finito in una misura firmata dal GIP del Tribunale di Palermo, insieme a 9 soggetti accusati proprio di associazione mafiosa e di aver siglato la Pax mafiosa in nome delle estorsioni e del controllo degli appalti pubblici. Maniaci, per tutti giornalista coraggio, inserito da Report Sans Frontières tra i 100 eroi del mondo dell'informazione, noto per la sua inchiesta sui beni confiscati, è stato beccato al telefono mentre chiedeva soldi al sindaco di Partinico in cambio di un trattamento di favore da parte della TV. Per i magistrati di Palermo non c'è dubbio, il giornalista estorceva denaro agli amministratori. Le intercettazioni parlano chiaro, sentiamole. Allora, ascoltami, io sto passando in questo momento per vedere se il giornale ufficiale del sindaco c'è libro, quando lo faccio dare qualche cosa. Allora, fammi passare il capo, fammi vedere se c'è il soggiornoto, che ha 100 euro come cazzo per la cucciola. Amatore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Poi dovremo raggiungere il legale di Maniaci, che è l'ex magistrato Antonio Ingroia, e quindi torneremo a parlarne. Siamo al caso Regeni, arrivano alcuni tabulati telefonici dal Cairo, sabato ci sarà un nuovo vertice tra inquirenti egiziani e italiani, ne riparliamo nel corso di Effetto Note per capire se appunto rispetto alla notizia negativa di ieri oggi si può essere cautamente ottimisti. E poi la Siria, è stato raggiunto l'accordo tra Stati Uniti e Russia per l'estensione della tregua alla città martoriata di Aleppo, teatro di intensi combattimenti fra il regime e i ribelli. Dovrebbe essere imposta questa tregua entro 48 ore. Immigrazione, interviene la Commissione europea con 3 proposte e sul Brennero Renzi ammonisce ancora l'Austria, solo propaganda. L'estensione dei controlli ai confini interni di 5 paesi, la liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi, la modifica del regolamento di Dublino. La Commissione europea interviene con 3 proposte che poi verranno sottoposte a Parlamento e a Consiglio UE. Proroga per un massimo di 6 mesi dei controlli temporanei ai confini interni di 5 paesi, Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia. Riguarda solo la rotta balcanica e non il Brennero, per la cui chiusura la Commissione si è sempre opposta. Una questione su cui interviene nuovamente Renzi, puro esercizio di propaganda da parte dell'Austria ammonisce il premier. Si apre poi per 75 milioni di turchi la possibilità di ingresso senza visto nell'area Schengen, una condizione richiesta dalla Turchia come contropartita alla gestione dei flussi migratori. E infine la revisione parziale del regolamento di Dublino con un meccanismo automatico di solidarietà in caso di flussi eccezionali, multa di 250.000 euro al rifugiato per il paese che non fa la propria parte. Intanto di migranti si occupa anche Europol. Alcuni agenti sono stati dispiegati negli hotspot di Grecia e Italia per intercettare eventuali infiltrazioni da parte dei terroristi dell'ISIS. Del resto, spiega il direttore Wainwright, la minaccia terroristica è ancora molto alta, anche se non c'è nessuna informazione su una specifica minaccia nei confronti dell'Italia. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel frattempo il governo della Gran Bretagna cede alle pressioni e ha deciso di accogliere i bambini siriani non accompagnati che sono arrivati in Europa, lo annuncia l'ufficio del primo ministro Cameron, precisando che avranno diritto ad andare in Gran Bretagna i minori che sono stati registrati in Grecia, Italia o Francia prima del 20 marzo. E siamo alla politica italiana, Renzi annuncia sulle pensioni partirà la flessibilità dal 2017, sulle unioni civili si vota il 9 maggio e poi questa proposta di levare il bollo sull'auto e di aumentare le accise. State mandando tantissimi messaggi, spero di riuscire a non perdermi tra questi, a leggerne diversi, sia al 349-238-6666 che la pagina Facebook di Effetto Notte. Nel centrodestra intanto il leader della Lega Salvini dichiara: tocca a me avere l'onore e l'onere di guidare l'opposizione contro il PD. Fino al 2013 il pallino del centrodestra è rimasto nelle mani di Berlusconi, ma ora non è più così. L'errore che non vorrò fare io è di circondarmi di mediocre, anzi di avere una squadra di governo composta da gente esclusivamente migliore, più in gamba di me. Non sarà difficile ottenerla, ma a questo stiamo lavorando. Sicuramente non prevedo nel futuro di questa squadra i Verdini, gli Scajola, gli Alemanno e tutti i reduci che si stanno radunando attorno a questo progetto marmellata qua a Roma. Ed è arrivato in serata, è arrivata la decisione della Banca Centrale Europea, come era nelle attese, ha deciso di bloccare dalla fine del 2018 la produzione della banconota da 500 euro. Il motivo è legato alle preoccupazioni che questa banconota possa facilitare attività illegali. Una banconota, tra l'altro, che ha un soprannome veramente particolarissimo e ne parleremo poi nel corso di Effetto Notte. C'è una scoperta scientifica, è stato scoperto un farmaco di azione rapida contro la depressione, si tratta di un sottoprodotto della chetamina, che in realtà la chetamina è un anestetico di cui sono ben noti gli effetti antidepressivi rapidi, ma non utilizzabile nella cura per i suoi pesanti effetti avversi. La scoperta è stata resa nota sulla rivista Nature, il composto si chiama idrossinorchetamina. Si tratta potenzialmente di un'importante scoperta, afferma il coordinatore Todd Gould della University of Maryland. Quello dei farmaci antidepressivi è un problema che aspetta una risposta da parecchi anni e questa potrebbe forse essere la risposta giusta. Parliamo di diamanti. Il più grosso diamante grezzo esistente al mondo, il cui valore è stato stimato a oltre 70 milioni di dollari, sarà messo all'asta il prossimo 29 giugno a Londra. Lo ha annunciato la casa d'aste americana Sotheby's. La pietra battezzata Le Sedi Larona, questo nome, è stata trovata 9 mesi fa in Botswana dalla società specializzata nell'estrazione di diamanti Lucara. È un diamante di 1109 carati ed è il più grosso mai scoperto da oltre 100 anni. Quindi, se siete interessati, segnatevi questa data, 29 giugno c'è l'asta a Londra. Per chiudere il calcio, per la Champions League è in corso la sfida tra Real Madrid e Manchester City. C'è qualcuno che brilla come un diamante, Giovanni Capuano? Eccomi Roberta, sì, sta brillando Real Madrid e sta brillando Gareth Bale, che 10 minuti fa, al 20esimo, adesso siamo alla mezz'ora, ha realizzato il gol dell'1-0, gol anche abbastanza fortunoso il suo, è stato una sorta di tiro cross di destro che è finito sotto l'incrocio dei pali dall'altra parte, ha battuto Hart, portiere del Manchester City, ha portato in vantaggio gli spagnoli. Questo è il gol che a questo momento, ma mancano 60 minuti più i vari recuperi, qualificherebbe il Real Madrid alla finale di Champions League del 28 maggio e, se così andasse, riproporrebbe la rivincita del derby di Madrid che si è già visto nella finale di Lisbona del 2014. All'andata Manchester e Real hanno pareggiato 0-0, dunque ancora tutto aperto, perché in realtà un gol degli inglesi consentirebbe al Manchester di qualificarsi. È fin qui però una partita abbastanza equilibrata. Il City ha perso Kompany per infortunio dopo 10 minuti, è entrato Mangala, aveva iniziato meglio il Manchester, poi piano piano Real Madrid ha alzato il baricentro della propria azione, ha creato i presupposti per qualche azione pericolosa, un colpo di testa di Cristiano Ronaldo e poi abbiamo già raccontato il gol al 20esimo segnato da Bale. Grazie Giovanni Capuano, e poi ci aggiorniamo più tardi. Intanto vi aggiorno sui messaggi vostri, tantissimi che stanno arrivando su questa proposta accolta in parte da Renzi. Ha detto che è una buona idea di un cittadino o una cittadina che oggi ha scritto il suo Matteo Risponde di eliminare in futuro il bollo e semmai aumentare le accise sui carburanti. Allora, dice Maria da Roma, trovo giusto non pagare il bollo se consumi più benzina, usi anche di più le strade. Maurizio, chi utilizza l'auto per lavoro come gli agenti di commercio, perché devono essere penalizzati? Poi, il bollo in accise, se calibrato in modo onesto, sarebbe l'unica tassa sensata, una carbon tax sull'uso dei veicoli. Più usi, più consumi, scrive un altro ascoltatore. E poi un altro messaggio, c'è chi usa l'auto per lavoro, per raggiungere il posto di lavoro, sarebbe meglio ad esempio una tassa di un euro al giorno per tutte. Vediamo, apriamo questo messaggio, sono tanti, quindi si sovrappongono. La tassa non peserebbe sulle finanze degli italiani già pesantemente tartassati. E ancora sulla pagina Facebook e al 349-238-6666, Paolo dice sono contrarissimo a aumentare le accise, ma siamo su scherzi a parte. E poi un altro ascoltatore, basta che tolgano le accise per il Belice e la guerra di Libia, quindi vecchissime di decenni. Beppe da Brescia, non sono molto d'accordo, uso la macchina per lavoro, non per divertimento. Massimo da Udine, proposta ottima, è sempre giusto tassare l'uso delle cose, tassare il mero possesso sarebbe, dice, anticostituzionale. Tanti messaggi ancora, cercherò di leggere il più possibile, poi però abbiamo anche i vari argomenti, adesso aggiorniamo chi sta viaggiando e poi cominciamo a trattare i vari temi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo a momenti, Roberta Giordano sempre con voi, tutte le sere dalle 21 alle 22 per avere il quadro complessivo della giornata, per interagire anche voi su un tema del giorno e per poi avere più chiarezza su alcuni argomenti che di volta in volta tratto con gli ospiti. Tra poco ci saranno i primi ospiti e anche il primo tema di questa sera. Intanto voi continuate a rispondere al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Che ne pensate della proposta fatta da un cittadino, da una cittadina a Renzi oggi al suo Matteo Risponde di eliminare il bollo sull'auto e compensarlo con un aumento delle accise? È il solito regalo ai ricchi rubando ai poveri? Una persona che possiede tre macchine, compresa una Ferrari, potrebbe pagare di meno, dice questo ascoltatore, sto aprendo il messaggio, pagare di meno di un operaio che per lavoro è costretto a fare 40 km al giorno. Vedete quanti sono i punti di vista. E un altro dice, io sono un autotrasportatore, aumentare le accise per non far pagare il bollo potrebbe essere penalizzante per noi trasportatori. Marco scrive, ma non era Renzi ad aver promesso l'abolizione delle accise per i terremoti eccetera, prima dovrebbe abolire quelle. Continuate pure, vi ricordo quali sono le notizie più importanti se non avete acceso puntualmente la radio alle 21. Renzi annuncia flessibilità sulle pensioni nel 2017 e poi svela questo meccanismo, questa norma dell'APE, quindi la possibilità di andare in pensione prima, e propone questo scambio bollo-accise. Ideale sarebbe ridurre anche le fasce IRPEF, dice. Poi il caso, l'inchiesta di Lodi, che coinvolge anche il Consiglio Superiore della Magistratura, ne parleremo a breve. Scontro tra il Movimento 5 Stelle e Renzi, il movimento che dice è un giullare, lui dice loro sono dei nepotisti, mentre Salvini dice sono io il leader del centrodestra, ormai Forza Italia è indebolito. Multe a chi non accetta i profughi, questa è la proposta dell'Unione Europea, 250.000 euro a profugo per i paesi che non vogliono o non possono accogliere i profughi. E poi Cruz nelle primarie americane, Cruz dei Repubblicani si arrende, Trump vola verso la nomination. Cominciamo quindi dall'inchiesta che ieri ha portato, ne abbiamo parlato, all'arresto del sindaco di Lodi, Lodi vicino Milano, Simone Uggetti del PD, che è stato arrestato dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza per turbativa d'asta. È in pratica accusato di aver favorito con un bando confezionato ad hoc su misura la società Sporting di Lodi nella gestione delle piscine comunali scoperte della città. Insieme a lui è stato arrestato anche l'avvocato Cristiano Marini, che è consulente della Sporting. Secondo l'ordinanza di custodia cautelare, le finalità era ottenere vantaggi per sé in termini di consenso politico elettorale e per la società aggiudicataria. La GIP di Lodi, che ha disposto l'arresto, ha scritto nell'ordinanza delle cose piuttosto pesanti, ha detto che il comportamento del sindaco destano notevole allarme sociale, una personalità negativa e abietta palesata questa personalità da entrambi, hanno dimostrato assoluta spregiudicatezza. Uggetti, che si proclama innocente, è stato sospeso dalla sua carica, dal suo ruolo di sindaco, e si è autosospeso dal PD. L'indagine parte quando a metà marzo una dipendente del comune di Lodi, Caterina Uggè, si rivolge alla Guardia di Finanza e presenta un esposto su questo appalto. Ora la sentiamo, è stata raggiunta oggi dalla nostra Raffaella Calandra, anche se ha precisato che non vuole entrare nel merito dell'indagine, ma dice: faccio solo il mio lavoro. Io sono una normalissima impiegata, infatti sono qui in ufficio che sto continuando a fare il mio lavoro, sto cercando di fare il mio lavoro il più seriamente possibile, come ho sempre fatto. E io mi sono sempre occupata di sport, turismo, promozione della città, non è cambiato nulla, per ora no, ecco, per ora sono sempre qui e sto facendo le cose che facevo anche ieri e l'altro ieri. Con la stessa serenità, insomma. Sì, quello si calma sicuramente. Sono nell'ufficio turismo, quindi i suoi colleghi sono venuti fin qui anche direttamente, cercato comunque di promuovere la città dicendo: andate comunque a vedere qualcosa di Lodi, tanto c'era bomba, sì, era stata famosa anche per altre cose. Sì, ogni tanto è vero, Lodi viene su per questi motivi, poi è una bella cittadina comunque. Altro che una gran bella cittadina, per cui lei dice: almeno approfitto di questa situazione che c'è oggi per invitare le persone ad andare a conoscere la città, no? Mi sale la statistica dei turisti, diciamo. Ma anche con i miei colleghi cerco di tenere, cioè stiamo cercando di andare avanti normalmente, come giusto che sia, ecco. Come se nulla fosse, insomma. Come se nulla fosse. Questa è la funzionaria che aveva denunciato questo fatto. L'arresto del sindaco di Lodi comunque ha implicazioni giudiziarie, abbiamo parlato, anche politiche, perché costituisce una nuova tegola sul PD e Uggetti, tra l'altro, è stato braccio destro del vice segretario del Partito Democratico Guerini, che è stato sindaco di Lodi. Qualcuno ha parlato di complotto contro il PD, però Renzi oggi a RTL ha smentito seccamente. Io credo che ci sia bisogno di grande chiarezza, di grande tranquillità e di grande rispetto nei confronti di magistrati. Vedo qualcuno oggi che dice: complotto, non complotto. Complotto di che? C'è un'indagine in corso, c'è un'ipotesi di reato, piena fiducia nel lavoro dei magistrati. Se, come tutti noi ci auguriamo, non ci saranno le possibilità per dimostrare l'innocenza degli amministratori sotto indagine, bene, se saranno colpevoli è giusto che paghino, ma nessun tipo di strumentalizzazione e di battaglia politica su questo. Tra l'altro oggi il componente laico del PD, del Consiglio Superiore della Magistratura, Giuseppe Fanfani, ha chiesto l'apertura di una pratica per verificare la legittimità di questa custodia cautelare, poi ha ritirato la richiesta per le reazioni dell'Associazione Nazionale Magistrati. Ma ne parliamo con Sara Monaci, giornalista d'inchiesta del Sole 24 Ore. Buonasera Sara. Sì, buonasera. Come si prosegue proprio... questa inchiesta? Stavo proprio occupandomi di questo in questo momento per il quotidiano che sarà in edicola domani. Allora, ti leggeremo Sì, hai riassunto benissimo, la situazione è esattamente questa: chi grida il complotto, chi invece ritiene di dover abbassare i toni. Ma diciamoci la verità, di questa indagine quello che ha soprattutto sorpreso e quindi creato anche dibattito sono state le misure cautelari, cioè il sindaco Uggetti, che ha un'inchiesta in corso di cui poi lui cercherà di dimostrare la sua estraneità, la procura cercherà invece di valorizzare gli elementi a suo carico, la questione fondamentale è però l'uso del carcere a San Vittore per un'inchiesta che ovviamente è ancora in una fase in corso, non abbiamo ancora ovviamente stabilito la colpevolezza, ma soprattutto perché si tratta di un'indagine, lo ricordo, perturbativa d'asta, non si sta parlando di corruzione, quindi non si sta ipotizzando che il sindaco e l'avvocato Marini si siano intascati dei soldi, ma si parla della creazione di un bando ad hoc per far vincere una società partecipata dal comune, quindi si era creata una situazione di monopolio che dice il GIP nell'ordinanza di custodia cautelare era finalizzata al consenso elettorale. Questo cosa vuol dire? Che non è il giro d'affari e non è nemmeno l'arricchimento, la cosiddetta utilità personale, la questione, ma è una turbativa d'asta. Sappiamo che la custodia cautelare in carcere viene sicuramente utilizzata per quando ricorrono quei tre elementi famosi, quindi pericolo di fuga, inquinamento delle prove o reiterazione del reato. In questo caso si è ravvisata una grave possibilità di inquinamento delle prove. Detto questo, stiamo parlando di un bando di 5.000 euro con poca una base d'asta. Sì, poca cosa, ma infatti il punto emerso proprio dagli stessi atti dell'inchiesta, lo dicono gli stessi procuratori, lo dice il GIP, non è tanto la mole degli affari quanto questo desiderio di controllare il consenso elettorale, che però potrete capire in un comune con le sue partecipate è cosa anche ben comune, perché poi evidentemente quello che emerge dall'inchiesta è il malcostume di ruoli che si sovrappongono, di persone che hanno ruoli sia in società private ma allo stesso tempo anche nella società pubblica, quindi non c'è esattamente un regime di concorrenza e anche di gestione efficiente, perché queste piscine che dovevano essere gestite sono evidentemente piscine mal gestite, cioè hanno un giro d'affari di 100.000 euro ma hanno anche molti buchi da sanare. Quindi emerge quello che è lo spaccato delle partecipate comunali di questo paese, gravemente deficitario, in qualche modo c'è un sistema che deve essere rivisto, rimesso in concorrenza, ma il giro d'affari, lo preciso, è questo, 100.000 euro all'anno l'estate con la gestione piena, buchi da risanare, un bando di 7.000 euro con un rialzo di assa di 2.000 euro. Quindi la misura in carcere evidentemente è fatta per inquinamento prove, ma tutti quanti ha fatto chiedere e anche ha fatto spiegare agli stessi procuratori, allo stesso GIP, il perché. Perché evidentemente sembra una misura spropositata. Sì, è questo il tema poi credo di oggi. Certamente l'argomento politico è molto rilevante perché sappiamo il governo sta ipotizzando dei cambiamenti nella giurisprudenza, nella normativa e che riguarderà poi i giudici, si parla di prescrizione, si parla di norme sulle intercettazioni, quindi evidentemente esiste un braccio di ferro in corso tra l'Associazione dei Magistrati e il governo, esiste anche una nuova tensione sulle recenti affermazioni fatte da Davigo sul fatto che i politici non si vergognano e sono ancora più rubano come prima ma si vergognano meno, no? Quindi, esatto, cioè, quindi esiste una tensione in questo momento tra l'esecutivo e i magistrati e quindi tutto questo viene anche interpretato alla luce di questo evento. Ricordiamoci anche che il Movimento 5 Stelle è in una fase di ascesa in alcune città, cerca anche una campagna elettorale, il giustizialismo e la legalità, la trasparenza sono i suoi cavalli di battaglia, quindi evidentemente vengono anche utilizzati per dare un'interpretazione di quella che secondo loro sarebbero la presunta corruzione anche del PD, dire che sono comunque tutti uguali. Quindi in queste dichiarazioni va anche visto il contesto in cui stiamo vivendo, campagna elettorale per le amministrative e un cambio una ricerca di nuove norme per regolamentare l'attività giudiziaria. Quindi questo è una buona, credo, base di partenza per interpretare un fatto che probabilmente in un altro momento sarebbe passato più inosservato. Forse sì, viste le dimensioni della cittadina, del reato in sé, se appunto c'è reato, comunque saranno i magistrati naturalmente a stabilirlo. Questo per dire, come hai spiegato molto bene tu, anche quante implicazioni oltre che giudiziarie e politiche ci sono in questo fatto, in questa vicenda. Che tu ricordi, hai ben ricordato, è l'uomo a cui Guerini, vice segretario di Renzi, ha lasciato la sua eredità, il suo testimone, nella città di cui lui prima era sindaco. Guerini, sindaco di Lodi, ha lasciato la sua poltrona, ha indicato, diciamo, come futuro sindaco Uggetti, che ricordiamo però, spieghiamolo, non era esattamente un renziano ma era un bersaniano, poi è diventato, diciamo, uomo di Guerini, ma questa cosa storia abbastanza comune, cose che sono successe, esatto, però grazie. Esattamente la misura cautelare che ha fatto anche parlare noi, altri giornali, è stato l'argomento, perché anche se il rischio di inquinamento prove c'era, certo, per il GIP ovviamente. È vero che il carcere a San Vittore per questo tipo di bande, sembra per questo un po' tipo di reato al momento. Sì. Poi capiremo, sì, se c'è qualcos'altro. Grazie Sara Monaci, grazie Sara Monaci del Sole 24 Buonasera. Ore e buon lavoro a te. Ora, tantissimi messaggi che continuano ad arrivare vostri su questo cambio tra bollo e accise. Volete voi qualche accise in più, essendo però esenti da bollo, secondo questa proposta fatta da chi scriveva oggi a Matteo Risponde, a Renzi. Chiara dice sulla pagina Facebook di Effetto Notte: no, perché il bollo tiene conto anche della partenza, della potenza, scusate, del motore, in maniera indiretta dei consumi e del maggior inquinamento dei veicoli più potenti. Scaricare sul carburante non sarebbe comunque equo. Alberto dice: ma se Renzi si sforzasse, o meglio avesse il coraggio di individuare i tanti scandalosi sprechi di denaro pubblico, si potrebbe abolire il bollo senza necessariamente aumentare le accise. Sarebbe ora che si cominciasse sul serio a mettere in pratica questa cosa. Luciano: questa è un'ottima idea. Io penso che aumenterebbero le vendite di auto e moto, visto che il bollo è una tassa che frena il settore delle vendite. Io la estenderei anche alle assicurazioni. Se io ho 10 auto e le guido solo io, perché devo pagare 10 assicurazioni? E allora adesso raggiungiamo invece il legale di Giuseppe Maniaci, Antonio Ingroia, ex magistrato, attuale avvocato. Buonasera Ingroia. Buonasera a voi. Allora Ingroia, io cerco di sintetizzare il più possibile questo caso, non so come definirlo, paradossale, avvenuto in Sicilia. Un giornalista televisivo di Partinico, vicino Palermo, Pino Maniaci, era da tempo diventato coi suoi TG sulla piccola emittente Teleiato, di cui è direttore, il simbolo di un giornalismo coraggioso contro la mafia, contro i poteri forti, un'immagine di indomito paladino che gli è valsa addirittura l'inserimento nella lista dei 100 eroi dell'informazione mondiale. Stando però ai magistrati della Procura di Palermo, la realtà sarebbe ben diversa. Maniaci, indagato per estorsione, oggi è stato notificato il divieto di dimora nelle province di Palermo e di Trapani. Dalle intercettazioni e dai video dei carabinieri emergerebbe un personaggio che poco ha a che fare con l'eroe del la legalità finora qui dipinto. Il giornalista sarebbe infatti indagato per estorsione nei confronti dei sindaci di Partinico e di Borgetto, avrebbe preteso soldi e favori per ammorbidire i suoi servizi televisivi. E in queste intercettazioni, in questo video riprese dei carabinieri, dicono che colpisce particolarmente l'ostentazione da parte di questo giornalista di una sua sensazione di intoccabilità, descrivendo proprio dal suo, a questo punto, apparente impegno antimafia, al punto di dire: secondo quanto risulta dalle intercettazioni, dice lui, tutti si cacano se li sputtano in televisione. Poi viene anche raccontata questa sua telefonata che segue, una telefonata che ha fatto Renzi per dimostrargli solidarietà in una situazione in cui sembrava che fosse stato colpito da mafiosi che lo volevano intimidire. Invece poi si è scoperto che era il marito geloso della sua amante. Lui avrebbe detto: tutti in fibrillazione sono, mi ha telefonato anche quello stronzo di Renzi. Com'è possibile, Ingroia, che questo paladino dell'antimafia improvvisamente si scopra così? Ma allora, innanzitutto aspettiamo di conoscere esattamente tutti, certo, gli elementi a carico, e li avremo nei prossimi giorni, mentre diciamo, mi spiace che in queste 12 ore sia stato già crocifisso e condannato mediaticamente. Aspettiamo un attimo di vedere che gli elementi di prova siano contestati a Maniaci, e Maniaci possa dire raccontare la sua verità e metterla a confronto. Dopodiché, anche qui, io sono il difensore legale di Maniaci. Maniaci deve essere imputato ed eventualmente condannato, quando sarà, per fatti di eventuale rilevanza penale. Altra questione se ci sono state sue leggerezze, sue più o meno perdonabili sul piano etico, condotte riprovevoli, ma penalmente parlando lui è accusato di estorsione. Allora, per esserci l'estorsione ci deve essere una, in questo caso dovrebbe essere una sorta di mercanteggiamento della sua attività giornalistica. Allora, la procura dovrà dimostrare, e noi da difensori, io e il collega Perrino che mi coadiuva, siamo convinti che non ci sia affatto la prova, anzi ci sia la prova del contrario. Bisognerà provare che Maniaci, dopo aver preso dei soldi, abbia cambiato la linea editoriale, quantomeno nei confronti dei sindaci ai quali avrebbe chiesto soldi. Ma anche se non le avessi, anche se non avesse cambiato su linea editoriale, no, però si vede in questo video riprese questa aggressività, questo atteggiamento. Allora, l'aggressività, no? Allora, chi non conosce Maniaci magari può restare un po' sorpreso dal modo di fare, dal modo di esprimersi. Maniaci è così, è sempre stato così, anche quando lottava la mafia, non avete visto voi gli editoriali nei quali insultava i capi mafia. Anche se però Ingroia chiedere soldi per ammorbidire poi la linea, anche se non l'avesse ammorbidito, poi. Non si vede da questo video riprese. Non esiste, no. Non esiste nessuna prova in cui abbia chiesto soldi per ammorbidire. Intanto che Maniaci aveva già spiegato quando erano uscite le prime indiscrezioni sui giornali, poi lo spiegherà evidentemente ai magistrati. Lui aveva chiesto dei soldi relativamente a degli obblighi che erano stati assunti per spazi pubblicitari sulla sua televisione della moglie di quel sindaco. Poi il fatto che i soldi l'abbia preso personalmente dal sindaco anziché dalla moglie, vabbè, questa è altra questione. Ma non c'è nessuna, almeno che io abbia letto oggi, ho visto tanti siti che erano abbondantemente informati, e questa è un'altra questione, sul fatto che siano usciti addirittura spezzoni dei video e delle intercettazioni di cui né Maniaci né i suoi difensori sono stati venuti a conoscenza, non hanno avuto più nei giornali, sono stati commessi dei reati da qualcuno, magistrato, investigatore che sia, ma per questo poi faremo denunce separate. Ma al di là di questo rimane il fatto che, da quello che ho visto nei vari siti giornalistici, non c'è nessuna intercettazione in cui lui dice dammi soldi che io cambio linea, sarò più morbido nel benissimo tutto. Benissimo, dottor Antonio Ingroia, io quindi le auguro buon lavoro e poi staremo a guardare curiosamente, insomma, come sì, procede questa inchiesta. Sì. Grazie, buon lavoro. A grazie voi, Ingroia. Viabilità, sì, i messaggi sono tantissimi, ancora qualche messaggio, sono veramente molti. Pienamente d'accordo a togliere il bollo auto e aumento accise, anche perché pagherebbero tutti con le accise, scrive qualcuno. Un altro dice sì, giusto, basta il bollo. E poi un'ascoltatrice dice ciao Roberta, sono Silvana, non ho l'auto ma sono d'accordo con Rezzi. Continuate, pagina Facebook di Effetto Notte e 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, e anche se volete con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Continuano i vostri messaggi, tantissimi, sul possibile scambio proposto oggi da alcuni cittadini a Renzi. Matteo risponde, scambio tra bollo e accise, levare il bollo dall'auto e aumentare le accise. I vostri messaggi, Simone, tra il 349-238-6666, la pagina Facebook di Effetto Notte. Simone, dicevo, scrive, bollo auto assorbiti dalle accise carburanti. Sì, ma prima eliminiamo le accise preistoriche che ancora gravano sui rifornimenti da decenni. Questo lo scrivo in moltissimi di voi. Anna dice il bollo auto esiste solo in Italia e non in Europa, sicuramente hanno fatto i conti e così entrano più soldi, la solita zuppa, conclude Anna. Noi ci prestiamo a trattare un altro argomento con il prossimo ospite, vi ricordo però velocemente le notizie più importanti. Inchiesta di Lodi, interviene anche un componente del PD del CSM che chiede di verificare la legittimità dell'arresto del sindaco, ma poi ci ripensa. Scontro tra il premier Renzi e i 5 Stelle. Il caso del giornalista siciliano Pino Maniaci, ne abbiamo appena parlato con il suo avvocato Antonio Ingroia, noto per le sue battaglie contro la mafia, accusato adesso di estorsione a due sindaci. Politica italiana, Renzi annuncia sulle pensioni flessibilità nel 2017, sulle unioni civili si vota il 9 maggio. Siria, accordo raggiunto tra Stati Uniti e Russia per l'estensione della tregua alla città martoriata di Aleppo. Tra pochissimo parleremo del caso Regeni e poi la partita di Champions, Atletico Madrid, Manchester City 1-0 per il momento per il Real Madrid. Torniamo allora sul caso Regeni, ma si spera oggi rispetto a ieri per una notizia che potrebbe essere cautamente positiva. Ieri, vi ricordate, abbiamo parlato di questa mail che sarebbe arrivata per uno sbaglio dal governo egiziano ai media egiziani, in cui praticamente si parlava di un piano segreto per censurare i media relativamente al caso Regeni. Oggi invece la notizia è che sarebbero arrivati dal Cairo alcuni tabulati telefonici, e anche un'altra notizia è che si terrà sabato il nuovo incontro al Cairo tra inquirenti italiani ed egiziani che indagano sull'uccisione del ricercatore friulano Giulio Regeni. Ne parliamo con il senatore Luigi Manconi del PD. Buonasera, senatore. Buonasera a voi. voi. Che tra l'altro è presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani e se ne è occupato dall'inizio di questo caso. Le sembrano delle buone notizie, senatore? Mi sembrano delle esilissime, molto esili, notizie positive, ma davvero dopo la lunga, direi infinita, sequenza di notizie negative, di voltafaccia e addirittura di rispostacce e di oltraggi diretti alla volontà di ottenere verità e giustizia espressa dall'Italia e dalle sue istituzioni, mi sembra davvero che ci sia poco da essere fiduciosi. Siamo ancora, con 3 mesi di ritardo, alle mosse preliminari, quelle che sarebbero arrivate oggi dopo rogatoria, cioè dopo richiesta formale da parte della procura italiana, sono semplicemente, come lei giustamente ha detto, alcuni dei tabulati. E dunque non tutto intero l'insieme dei tabulati, delle intercettazioni, dunque delle registrazioni che erano state richieste, e anche l'incontro che avverrebbe tra qualche giorno tra le due procure, e mi auguro che non ripeta il copione purtroppo già più volte verificatosi, un copione totalmente deludente e frustrante. E infatti colgo questo suo avvilimento e questo suo pessimismo comprensibilissimo, senatore Manconi, perché anche qui effetto note alla 24 non abbiamo fatto altro che ripetere forse succede qualcosa, forse, e poi queste continue versioni, come diceva, prese per i fondelli continue. Ti ricordi che Giulio Regeni è scomparso il 25 gennaio, cioè sono passate settimane e settimane e settimane, e nel frattempo, io lo dico così chiaramente, l'atteggiamento delle autorità egiziane, lungi dal mostrare maggiore disponibilità, si è purtroppo addirittura incattivito, perché nel frattempo abbiamo avuto alcuni gesti intollerabili, di cui voi avete già parlato, quella reazione della conduttrice televisiva che mandava al diavolo Giulio Regeni, ma dichiarazioni e controdichiarazioni che portavano al depistaggio, ma l'insistenza sul carattere tutto privato della vicenda che ha portato alla morte di Giulio Regeni, ma alcuni dettagli così offensivi, inutilmente offensivi, che volevano disegnare uno scenario nel quale Giulio Regeni avrebbe trovato la morte a seguito di vicende morbosamente descritte, dove si alludeva a una sua presunta ambiguità sessuale. Persino questo, come nelle peggiori recite dei peggiori regimi della storia contemporanea, abbiamo sempre visto ripetersi. Senatore Manconi, un'ultima cosa. Lei ha incontrato anche più volte i genitori di Giulio. A questo punto, secondo lei, il governo italiano, più che, tra virgolette, dico magari far finta di essere speranzoso ogni volta, il ministro Gentiloni che dice ma speriamo di poter essere più ottimisti, chiediamo più collaborazione, eccetera, che cosa dovrebbe fare in una parola adesso? Guardi, intanto chiarisco rapidissimamente, non mi permetto di parlare a nome di alcuno, quindi parlo esclusivamente a nome mio personale, certo. Sono vicino ai familiari legali, ma parlo solo per me. Ritengo che l'Italia continui ad avere un atteggiamento di eccessiva prudenza, quasi patisse una sorta di complesso di inferiorità. Io ritengo che l'Italia si trovi nei confronti dell'Egitto in una posizione di forza, e questo viene costantemente sottovalutato. L'Italia è il secondo mercato europeo in alcune merci, il primo per quanto riguarda l'esportazione dall'Egitto. L'Italia ha certamente un grande interesse per il giacimento di gas Zohr, ma l'Egitto per quel giacimento ha un interesse ancora maggiore. E ricordo infine che il turismo in Egitto, per quanto in crisi, costituisce tuttora qualcosa come il 13% del prodotto interno lordo. Penso che vi siano leve sulle quali agire per premere con mezzi democratici, con mezzi non bellici, su quel regime, perché si renda conto che è in gioco non solo la verità su un nostro giovane connazionale, ma la dignità del nostro paese, la sovranità dell'Italia e allo stesso tempo quel bene inestimabile che è la tutela dei diritti fondamentali delle persone in Egitto, dove migliaia e migliaia di persone corrono lo stesso rischio che ha portato Giulio Regeni alla morte. Chiarissimo, senatore Luigi Manconi, la ringrazio. Grazie a lei. Grazie. E buonasera. Buona serata. Viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sulla pagina Facebook di Effetto Notte Simone scrive a proposito della proposta fatta a Renzi di eliminare il bollo sull'auto e aumentare le accise, dice l'idea sarebbe buona ma le accise sui carburanti sono già altissime in Italia. Davide, il bollo si paga in proporzione al valore dell'auto, le accise in proporzione alle necessità di utilizzarla. Continuate con i vostri messaggi, vi ricordo brevemente quali sono le notizie più importanti, abbiamo appena parlato delle possibili novità cautamente, insomma, ottimistiche sul caso Regeni e poi Renzi, che oggi ha annunciato che ci sarà l'apertura, la flessibilità per le pensioni dal 2017, ha parlato anche di questo possibile scambio bollo accise, mentre sulle unioni civili si voterà il 9 maggio. Il caso d'inchiesta di Lodi, è stato coinvolto anche il Consiglio Superiore della Magistratura e Renzi dice non c'è nessun complotto contro il PD, ho fiducia nei magistrati. Intanto prosegue lo scontro tra il Presidente del Consiglio Renzi e il Movimento 5 Stelle. E poi, per quanto riguarda l'immigrazione, multe propone l'Unione Europea a chi non accetta i profughi. Europa 24 notte. E per l'Europa parliamo di una banconota. Qualcuno di voi ha mai visto la banconota da 500 euro? L'ha mai avuta tra le mani? Ha mai sentito l'odore? Sappiate che il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea si è riunito oggi a Francoforte e ha deciso di eliminarla, questa banconota, perché è ritenuta troppo utile alla criminalità e alle organizzazioni che finanziano il terrorismo. A proposito di vederla o di non vederla, ha anche un nome particolare, un soprannome particolare, vero Vittorio Darold del Sole 24 Ore? Ciao Vittorio. Ciao, sì, esattamente, la banconota da 500 euro viene chiamata anche Bin Laden, alcuni dicono perché viene usata appunto dai terroristi, oppure perché come Bin Laden è rimasto nascosto nelle montagne appunto dell'Afghanistan e quindi chi l'ha visto, una sorta di banconota che per molti di noi non è mai non è mai stata vista nei portafogli delle famiglie italiane. Non l'abbiamo avvistata, no. Esattamente, comunque resta il fatto che adesso l'unica banconota di rilievo in Europa sarà quella appunto da 1.000 franchi svizzeri, questa sarà la banconota che resta invece sul mercato, perché dal 2018, a fine 2018, la Banca Centrale Europea ha deciso di non stamparla più, anche se naturalmente le banconote in circolazione avranno valore e continueranno a essere usate come mezzo di pagamento senza alcun limite temporale. Mi pare, Vittorio, che Draghi, il Presidente della Banca Centrale Europea, questo lo dicesse da tempo, che era da eliminare perché appunto è passibile di riciclaggio, di essere utilizzata più facilmente dalla criminalità, mentre era contrario il Presidente della Banca Centrale Tedesca. Invece oggi è trovato l'accordo, insomma, in conclusione. Sì, si è trovato un compromesso in realtà, ma effettivamente i tedeschi non volevano cedere su questo punto perché, come ha detto anche il Presidente dell'IFO, uno degli maggiori istituti di previsione economica tedeschi, avere le banconote da 500 euro in qualche modo per le banche tedesche che hanno magari un eccesso di liquidità in questo momento e non vogliono investire, ed è questa la polemica con Draghi, che invece li spinge a investire, li devono appunto depositare presso la Banca Centrale Europea, ma se tu hai un conto elettronico questo viene appunto a essere subito penalizzato con dei tassi negativi. Se invece li tieni nel caveau della banca, appunto magari in banconote da 500 euro per non usare troppo spazio, allora naturalmente i tassi negativi non intervengono. E questo insomma è un po' la politica dei soldi sotto il materasso, anche le banche tedesche fanno così. Molto bene, così. Questa ce la registriamo. Grazie Vittorio Darold. Grazie a voi. Ciao Vittorio. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E poi i vostri tantissimi messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666, quindi SMS e WhatsApp. C'è per esempio Giuseppe da Treviso su questo possibile scambio tra bollo, eliminazione del bollo sull'auto e aumento delle accise, che dice: ecco, come al solito noi disabili siamo sempre discriminati, visto che siamo esenti dal bollo auto, dobbiamo comunque pagare di più i carburanti con questa proposta che dal mio punto di vista è un po' ingiusta. Flavio: senza bollo sparisce la progressività delle imposte dell'auto, meglio fare l'inverso piuttosto. Daniele: proposta perfetta per persone benestanti che possiedono diverse auto ma penalizzate per chi deve usare l'auto per lavoro. Questi sono tantissimi messaggi arrivati in questo senso. Poi un altro SMS: allora non tassiamo chi ha il televisore ma solo chi lo guarda, ma via, dice, vabbè, una cosa un po' diversa. Davide: il bollo si paga in proporzione al valore dell'auto, le accise in proporzione alla necessità di utilizzarla, questo l'avevo letto. Alessandra: io abolirei le auto, cara Roberta, cioè, tutti a piedi, dico sul serio. Vabbè, Giovanni Capuano: tutti a piedi calciatori senz'altro, della partita di Champions che si sta giocando, ma chi vola? Eccomi, beh, sono a piedi e continua a volare il Real Madrid. 1-0, siamo nel nono minuto del secondo tempo, però è una partita che prosegue equilibrata, perché dopo il gol di Bale, 20° minuto, c'è un tocco di Fernando sul tiro cross del gallese, però il gol noi continuiamo ad assegnarlo a Bale. Dopo il vantaggio del Real Madrid c'è stato un gol annullato al Real per fuorigioco, decisione azzeccata questa da parte dell'arbitro e dei suoi assistenti, e c'è stata soprattutto un'occasione per il Manchester City nel finale del primo tempo con Fernandinho, il suo destro ha scheggiato il palo esterno ed è uscito. Pochi istanti fa Real vicino al raddoppio con Modric messo solo davanti a Hart, posizione regolare seppure di pochi centimetri, il portiere inglese in uscita è riuscito a mettere la palla in corner, rimane comunque tutto sui binari dell'equilibrio e soprattutto tutto assolutamente aperto, perché in questo momento, esattamente come nel precedente collegamento, è qualificato il Real Madrid, ma basta un gol al Manchester City per ribaltare il senso della qualificazione. Real che è andato ancora vicino al raddoppio, questa volta con Cristiano Ronaldo, proprio pochi istanti fa, colpo di testa però centrale e parato da Hart. Siamo nel decimo minuto, 1-0 per il Real Madrid sul Manchester City. A te la linea. Grazie Giovanni Capuano, e a voi ancora brevemente la linea, i vostri messaggi. Sono contrario a levare il bollo e aumentare le accise perché in Italia, scrive qualcuno, quando i governanti toccano una tassa si finisce sempre per pagare di più, vedi quella sulla casa che insegna, insomma. Molta diffidenza. Maurizio: se prima togliessero da quello scuro miscuglio che sono le accise quelle che non servono più, che non si sa dove vanno oggi, per esempio guerra in Etiopia anno 1936, crisi di Suez anno 1956, allora se ne potrebbe parlare. Moltissimi messaggi, però ci dobbiamo lasciare qui brevemente, poi risentirci alle 22.